voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Umberto Raspini, 65 anni di un salumificio nato da una storia d'amore. Di Anna Marino. Il suino di oggi non ha nulla a che vedere nel suo apporto di grassi e di nutrienti con i suini di 20, 30, 50, 100 anni fa. È un animale molto diverso che è stato via via dalla scienza dell'alimentazione, dalla scienza genetica, predisposto un'evoluzione di questo animale che ha fatto sì che le carni siano molto meno grasse, molto più digeribili e quindi in definitiva una corretta alimentazione che si fregia di una diversificazione di alimenti, una ragionevole quota di buonissimi salumi, a parte il piacere della convivialità, del buon vivere, danno un tono alla nostra cultura alimentare e anche dal punto di vista nutrizionale sono veramente modernizzati. Salute e piacere quindi si possono conciliare oggi anche con gli insaccati, inseriti in una sana dieta diversificata. Parola di Umberto Raspini, vicepresidente e amministratore delegato del Raspini S.p.A., storico marchio piemontese di salumi. Circa 65 anni di attività, oggi tra i primi 10 produttori del settore. Lo stabilimento si estende su 55.000 metri quadri, a cui si sono aggiunti quelli dello stabilimento di Prosciutti Rosa, sempre in provincia di Torino. La sola Raspini produce 12.000 tonnellate all'anno di prodotti interi più 5.000 in vaschetta e il gruppo, 275 dipendenti, 130 venditori, ha un fatturato per il 2010 che si aggira sugli 87 milioni di euro. Tutto inizia nel 1946, nell'immediato dopoguerra, ma la storia è legata prima ancora della fondazione dell'attività alla tenacia di figure femminili. Mamma Elsa, che emigrò in Francia. La famiglia della mamma era una famiglia molto umile, come puoi ben capire, e nelle zone nostre del Piemonte, quindi essenzialmente nel Pianerolese, mia mamma era della Valpellice, si emigrava perché le ragioni di vita e di lavoro erano essenzialmente legate alla terra e ad alcune aziende tessili e poche altre cose. Quindi le persone che, come capita adesso in altri mondi, in altre terre, avevano desiderio di guardare avanti, si orientavano a valicare perlomeno le Alpi, e per la verità la Francia è proprio a due passi. Dei parenti che vivevano a Marsiglia accolsero questo desiderio di mia mamma Elsa, la fecero lavorare in un mercato alimentare di Marsiglia e lì evidentemente ha fatto sì che di Elsa, di mia mamma, venissero subito evidenti gli aspetti di grande capacità di relazione e quindi uno spirito commerciale, noi in brevi termini lo definiamo, ma non solo. Mia mamma quando è andata lì aveva 18 anni, 17-18 anni e quindi ha passato alcuni anni lì e si è trovata bene, però appena ha potuto, racimolando qualche soldo, pensare poi magari a un divenire, allora ci si organizzava per affrontare la vita e anche un'unione eventualmente matrimoniale in tempi molto più ravvicinati, è ritornata poi in questa cascinotta. Scatta la molla commerciale ed Elsa torna in Italia a lavorare nella proprietà di famiglia con un'idea. Ma succede una coincidenza che la aiuta in questa svolta. Incontra papà Ilario, che fa parte della squadra collaudatori veicoli di Fiat, davvero un mito di quei tempi. Ilario un giorno esce in collaudo indossando la sua cuffia di cuoio aderente, gli occhialoni e un foulard svolazzante. E si spinge fino sulla strada statale 23, la vecchia strada napoleonica, sterrata, verso Pinerolo. Lì incontra la mamma di Umberto Raspini. Evidentemente questa idea aveva già generato alcuni sogni che però non avevano ancora potuto prendere corpo. Il caso vuole, o la divina provvidenza se desideriamo ragionare in questi termini, fa sì che ha incontrato mio papà, perché piemontese anche lui, era un addetto ai collaudi dei automezzi Fiat. Noi andiamo negli anni 20, questa cosa qua era un po' particolare, perché sai, i collaudatori intanto avevano la tuta bianca, poi avevano gli occhialoni, avevano quelle cuffie, ed era un po' un'elite. In sostanza però avevano anche un compito importante, perché loro collaudavano questi chassis scudati, no? scudati, nel senso che avevano solo le ruote, il telaio, allora c'era il telaio, il motore, il volante, un sedile magari di legno e nulla altro, e loro collaudavano queste vetture qua. Parole povere, la Fiat ovviamente da Torino a dove c'era lo stabilimento sono 20 km, erano 20 km allora, sono 20 km ancora adesso, e andavano questi collaudatori, ma parliamo di mio papà, sulla statale del Sestriere, quella napoleonica, diciamo la statale 23, che è proprio adiacente questa cascinotta dove adesso c'è lo stabilimento. Com'è, come non è, si vede che sto collaudatore aveva bisogno di fermarsi a bere un po' di acqua e ha incontrato Elsa e si saranno piaciuti. Ecco che allora questa unione, no, questo matrimonio ha fatto sì che probabilmente si sono, come dire, organizzati per affrontare la vita economica affittando un negozio a Torino in piazza Barcellona, e mio papà continua a fare il collaudatore, e quindi lui aveva questo sapere, questa passione. Per la mamma di Umberto Raspini la nuova attività diventa una grande passione. Inizia ad avere tante clienti affezionate, aumenta il lavoro, perciò il papà sceglie di privilegiare la nuova sfida commerciale e nasce l'attività di famiglia. Dopo un po' di tempo, sta salumeria evidentemente ha incominciato a fruttare bene, perché la mamma era molto brava e però aveva poi anche bisogno di aiuto. Allora giustamente papà scelse di scendere in salumeria, quindi abbandonò, e di lì nacque evidentemente poi un incremento dell'attività economica. Poi nacque mia sorella Maddalena, più avanti di me di 10 anni, acquisì anche poi subito una capacità commerciale, non a caso sarà poi la persona animatrice delle vendite a suo tempo. Passano gli anni, finisce la guerra e siamo nel 46. Viene fondato il salumificio e si sviluppa rapidamente nella proprietà della famiglia della madre. In questi anni, quindi parliamo del 1930, 35, 39, 40, poi la guerra eccetera, nacque questa esigenza di dire: bene, noi adesso acquistiamo i salumi. Per la verità nel periodo bellico c'era anche poca disponibilità di questi prodotti. Noi avevano un aggancio con la campagna, perché bene o male l'origine era quella, e quindi dalla campagna agli animali, ai salumi, i passettini, comunque non era un salto così incredibile. Gli affari, nonostante il periodo magro, andavano bene. E Umberto Raspini spiega il perché. Parlare di affari allora era molto semplice. Quell'epoca là bisognava poi anche solo avere il prodotto e venderlo per il suo prezzo, e non c'era il problema del collocamento, non c'era il problema di fare la pubblicità per vendere i prodotti, perché allora c'era evidentemente necessità di alimenti a tutti i livelli. E quindi questo può essere una concomitanza favorevole. Voglio fare un parallelo. Lei pensi ai contadini che ancora oggi si macellano il suino in casa, non è che abbiano bisogno di uno stabilimento per farlo, no? A parte le complicazioni delle ASL, certificazioni varie, tutte cose dell'ultimo tempo. All'epoca bastava avere l'animale, essere capace a trasformarlo e poi portarlo a Torino a venderlo nel negozio. Non è che ci fosse bisogno di chissà quale organizzazione scientifica, commerciale, marketing o che so io. Il mondo della campagna è quello che ha insegnato a tutta la famiglia Raspini i valori fondamentali. La civiltà contadina, di semplicità, di lavoro, perché intanto non è che puoi andare a schierarti da qualcuno a protestare perché non hai di che vivere. Specie allora bisognava solo che lavorare e non avere dei grilli per la testa e lavorare al meglio del possibile. Devo anche dire che in allora, diciamo, le esigenze dei consumatori erano più per la sopravvivenza e per l'alimentazione primaria piuttosto che per chissà quale leziosità o aspettativa edonistica. Non di meno la cultura contadina, secondo me, è una radice di valori. La gente viveva, c'era un po' di insalata, un po' di patate, un po' di, non so, cavoli o gli ortaggi, e la gente viveva così. L'animale, e poi l'animale, chi ne allevava 2, 3, 4, poi li vendeva a chi? Ai macelli, si macellava uno o due o tre suini alla settimana. Comunque, se lei vede la nostra storia di 65 anni di azienda, non è che siamo arrivati chissà dove, ma non abbiamo neanche mai voluto più di tanto, abbiamo sempre cercato di fare, consolidare. Siamo alla fine degli anni 70. Si formano poi due famiglie. Prima Lena e Beppe, di professione salumiere. Poi Umberto e Ada. E tutti assieme si lavora duro, ma volentieri. Non si conoscono mondanità e capricci. Ecco la ricetta del passaggio generazionale raccontata dall'esperienza di Umberto Raspini. Per arrivare al passaggio generazionale dobbiamo arrivare, ahimè, al momento in cui papà e mamma troppo presto ci hanno lasciati, alla fine degli anni 70. Mia sorella ed io eravamo già insediatissimi e responsabilizzatissimi, e quindi è stato un passaggio generazionale che non ha generato nessun tipo di problema dal punto di vista economico, anche se l'azienda era ancora molto più piccola, molto più snella, un'aziendina che comunque i genitori avevano sapientemente lasciato condurre dai figli anche in loro presenza, perché mio papà, per la verità, mi lasciò fare delle cose quando io ero poco più che ragazzo, però mi ricordo anche di un'autonomia lasciata in modo anche importante. E il bilanciamento tra vita e lavoro per Umberto Raspini è permeato dagli stessi valori di una volta. Anche per i giovani. Certamente ancora adesso certe volte mi faccio delle autocritiche, però io alla famiglia non ho mai fatto mancare nulla, e questo forse è stato uno di quegli aspetti, diciamo, che hanno motivato anche la necessità di organizzare in modo un tantino più strutturato un'evoluzione aziendale. Io mi sono sposato con mia moglie Ada, abbiamo festeggiato i 45 anni l'anno scorso di matrimonio, quindi anche mia moglie ha fatto un apporto significativo nell'ambito aziendale, però non c'è mai stato sovrapposizione di incarichi o che so io. Ci siamo sempre ripartiti serenamente il nostro lavoro, perché tanto andava solo che fatto. Come ho potuto bilanciare? Semplicemente scegliendo e facendo crescere dei collaboratori ai quali attribuire responsabilità. Io sono stato alla scuola salesiana. I giovani per noi sono sempre stati un valore enorme, e un pochino io mi sono organizzato per trovare i soggetti idonei, volenterosi e ricettivi di responsabilità. Il settore in Italia è molto parcellizzato. Oltre 1500 aziende in Italia, solo una cinquantina o giù di lì diventate industria. Le aziende che sono diventate marche riconosciute hanno lavorato sodo e la cultura della qualità è alla base. Oltre alla necessaria certificazione di qualità dei prodotti, il sistema di controllo adottato in Raspini è molto particolare, con una impronta quasi giapponese. Non a caso, Raspini ha esportato i suoi prodotti fra i primi nel paese del Sol Levante, grazie a questo metodo. Un prodotto non dovrebbe essere collaudato a fine ciclo produttivo, perché l'eventuale insuccesso del collaudo significa che tu hai necessità di contabilizzare un danno, perché il prodotto, se non corrisponde ai dettami e ai requisiti progettuali, non può essere venduto, e di fatto è un danno per l'azienda al quale bisognerà badare, no? Questo semplice concetto fa sì che un processo produttivo deve essere scomposto ovviamente in varie fasi, no? Una fase successiva non può essere avviata per un semilavorato se quel semilavorato non corrisponde alle qualità attese. Quindi io, quando parlo di concetto fornitore cliente interno, parlo proprio di un aspetto molto semplice, perché se io ho un prodotto e lo vado a vendere ad un cliente, il cliente si aspetta una certa qualità. Se questa qualità non è mantenuta, non è rispettata, il cliente o non compra il prodotto, oppure lo compra una volta, lo compra la seconda volta, non lo compra più, ecco che si crea un danno. Questo semplice argomento, no, vuol dire responsabilizzare le persone. A questi controlli si aggiunge anche la capacità di assaggiare, di diventare dei sommelier dei salumi. Esistono degli assaggiatori, per esempio in Piemonte è molto noto l'ONAS, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, c'è una questione visiva di colori attraenti di per sé, che sono già una festa per gli occhi già solo vederli. E poi ovviamente c'è una compattezza, c'è un profumo che poi chiaramente dipende dalle varie tipologie di prodotti italiani, però parlando per esempio del salame Piemonte, ha una percezione olfattiva molto delicata e molto così stimolante dei succhi gastrici, perché lei sa che le papille gustative vengono messe in moto intanto dagli occhi, dalla vista e dal profumo, quindi dalla pervietà nasale, e poi ovviamente in bellezza poi il palato, che così si delizia di queste cose. Serietà e precisione matematica che hanno origine nelle radici piemontesi della famiglia Raspini. Io credo che il carattere piemontese non ci compete di definirlo, perché è arcinoto una serietà e una pervicacia nel raggiungimento degli obiettivi, della sostanza più che della forma. Magari una carenza di comunicazione, però noi più che dire quello che facciamo, facciamo quello che diciamo, nel lavorare con la serietà. Travaglier si serio. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.